Blu Radio Veneto. Rock Wave. Rock Wave, l'onda del rock. Rock Wave, l'onda del rock. Eccoci qua, buonasera a tutti, buon mercoledì, un grande ritorno, quello di Michele Tosoni in regia. Viene, non viene, ma quando viene fa sempre le cose fatte bene. È il gruppo, è il gruppo importante. Venite da Verona, avete fatto un buon viaggio. Sì, buonissimo, sì. Dai. Un po' di pioggia, ma insomma, quello si può soprassedere, come si dice. Sì. Dark Ages, state bene? Benissimo. Vi vedo bene, vive. Adesso ci presentiamo. Simone, il nostro chitarrista, come stai? Bene? Ciao, sto benissimo Maurizio, nessun problema. Angela, la nostra tastierista. Bene, tutto a posto. Davide, il frontman, bello frontman alla prog. Buonasera Davide. Bello grosso. E Carlo, il nostro percussionista. Stasera tutto un po' ridotto, ma sempre percussionista. Sì, sì, sì. Bene, caro Simone, dove è nato il progetto Dark Ages? Quanto tempo fa? Abbastanza. Allora, l'anno scorso abbiamo avuto il piacere di festeggiare i... Cosa erano? 20 anni di attività. È 20 anni di attività. Sì. È una bella cosa 20 anni di attività. Sì, beh, chiaramente il gruppo era nato 20 anni fa, sì, ma con l'entusiasmo dei ragazzini, per cui... Anche io 3 anni ascoltavo i primi concerti. Loro? Sì, adesso scusa. Tu avevi 3 anni, 20 anni fa, fanno i conti di quanti ne ho io, per favore, dai, basta, costa, dai. Giovanissimo, è la new entry lui, o no? Sì, abbastanza giovane. È giovane, no, abbastanza, è giovane in tutti i sensi. Sì, esatto. Dai, vai Simone, dai, dimmelo. No, dicevo, allora, nato 20 anni fa, vabbè, con l'entusiasmo dell'essere ragazzini, avevamo avuto la fortuna di avere all'epoca già... così degli ottimi strumentisti che ci hanno portato ad avere poi alla fine un contratto discografico, per cui avete avuto un contratto discografico. Questa è una cosa interessante. Sì, oddio, è stata che anno era? Era il 90. 90, sì, bell'anno il 90. Sì, quello musicalmente è un'ottima cosa. Ma quello dei mondiali, cioè, qualcuno si ricorderà. Sì, vabbè, qualcuno si ricorderà, insomma. Beh, tartassati con... Vabbè, no, e comunque vabbè, era nato all'epoca, il contratto era arrivato un po', vabbè, diciamo così, un po' per scherzo, un po' per così per passione di altri, e noi ci siamo trovati fra le mani, per cui alla fine abbiamo colto questa occasione e abbiamo registrato questo primo questo primo disco che era uscito su LP. Purtroppo, una volta si usava gli LP, adesso sono ritornati, LP, sono ritornati alla grande. Sì, adesso sì. Bene, cosa molto positiva. Certo. No, il fatto è che comunque, come dicevo, era l'entusiasmo dell'essere ragazzini, dell'essere teenager, come si dice vabbè, in gergo, e quindi forse un po' per così non tanto abbiamo capito quello che ci stava succedendo, e alla fine quello che era la passione dell'epoca si è rivelato purtroppo un tragico epilogo per qualcuno alla fine, che ha smesso anche di suonare, per cui ecco. C'è stata un'interruzione. C'è stata una lunga interruzione, diciamo la verità. Lungo anno sabbatico, se potrei dire così. Ma più che un anno sabbatico, all'epoca sì, eravamo partiti, come dicevo, era uscito nel 91 ufficialmente. Poi chiaramente questo ci ha portato ad avere un po' di riscontri positivi, certo, chiaramente, certo. Anche con concerti dal vivo. Si è mosso, si è mosso qualcosa, sì. E questo ci ha fatto un po' campare così fino al 93, 94. Vabbè. E poi alla fine, vabbè, come ti dicevo, qualcuno ha abbandonato, qualcuno si era stancato, qualcuno già aveva abbandonato prima, qualcuno non è mai partito, alla fine così ci siamo trovati un po' spaesati in due su quelli che eravamo inizialmente in 6. Poi però lentamente, progressivamente nel 2008 è scoppiata un'altra scintilla. Guarda, io farei un passino ancora indietro. Un po' indietro. La scintilla, la prima scintilla importante dopo questo, vabbè, questo primo, diciamo, questo così, primo approccio, esatto, è arrivata con Davide. Eccolo, il nostro frontman, sì. Cantante, che è fondamentale, un gruppo rock, prog rock, e cantante. Anche dal punto di vista, ripeto, proprio un ottimo cantante prog, poi si vede dalla fisionomia, perfetto, un ottimo cantante prog. Davide, dimmi come ti sei incontrato con Simone. Ma intanto sono un po' più belli, mi sembra, i cantanti prog. Beh, insomma, va bene. Dai, facciamo. No, lui è venuto a trovarmi. Ma tu suonavi e cantavi in qualche altra band? Sì, sì. E mi ha chiesto di partecipare. Io gli ho detto, guarda che io non è che mi intenda tanto di questo tipo di musica, no? E lui ha insistito, insomma, a me è sempre piaciuto provare, insomma, generi diversi, e allora, insomma, così abbiamo cominciato, e poi, insomma, un po' una volta. Poi una volta si è sviluppato il discorso. Sì. Sì, e qua in che anno eravamo? Scusa? 96. 96. Vabbè, insomma, quindi sono passati ancora un po' di anni. Un po' di anni, esatto. Poi siamo arrivati al punto focale. Allora. Poi siamo arrivati, esatto, che vabbè, il 96, diciamo nel 97, così, un annetto dopo, Davide è arrivato con un'idea abbastanza inusuale per quello che era un po' lo stile dell'epoca. Ho detto, ma abbiamo dei pezzi, abbiamo delle cose che reputo carine, e speriamo anche gli altri, vabbè, e perché non ci proviamo, perché non facciamo un qualcosa di diverso? Nella sua testa era nato l'idea appunto di fare questo concept, lui aveva scritto questa storia che appunto poi viene raccontata nel concept, perché hai avuto modo di ascoltare Maurizio e poi sì, certo, ascolteremo qualcosa chiaramente, chiaro. Esatto, e qui vabbè, l'idea è piaciuta subito. È il concept, è interessante per il discorso del concept, nella vostra biografia citano Tommy, citano altri concept, opera rock vuol dire. Ecco, qua è meglio che te lo spiega Davide, perché... dimmi l'opera rock in se stesso, opera rock. Ma sinceramente l'idea è nata un po' una volta, no? Prima devo dire che avevo pensato qualcosa, lo ammetto, ebbene sì, di fantasy. Ok. Dopo però mi è venuta in mente una vecchia idea, insomma, che avevo, che era quella di unire degli elementi che magari di solito non stavano insieme, con un contesto magari diverso da sì. quello. E quindi io un po' ho pensato al melodramma italiano dell'Ottocento. Cioè dell'Ottocento, un sì. Un po' a Shakespeare, no? Una tragedia. Quindi. E poi messo quindi, tutto e poi assieme. Ho pensato anche ad un contesto diverso dai soliti, insomma. E quindi mi sarebbe piaciuto il mondo assiro. Sì, sì. E quindi parte dal mondo assiro babilonese. Ho unito un po' diverso dai soliti concetti che si usavano, sì. si sono usati in opera rock. Ho pensato proprio a questa, cioè alla opera come insomma quella italiana, certo. famosa dell'Ottocento, però in questo caso rock. Perché le cosiddette opere rock conosciamo, per quanto a me piacciono, però di opera non è che abbiano tanto. Opera rock, no? Si intende, sì, opera come, perché... come assieme di cose, probabilmente, sì, inteso in quel anche senso. Anche nel senso, anche insomma, la vicenda con qualche aspetto un po' tragico, insomma, quindi... Quindi nasce l'idea da quello, praticamente. Sì, era questo. Dalla cultura assiro-babilonese sei partito da quello. Sì. E poi mescolando questi elementi, perché magari c'è dentro un po' di Shakespeare, se vogliamo, ma certo. proprio così, insomma, sì, solo un momento sulla meccanica dei personaggi, eccetera. E poi anche insomma, poi c'è un finale che è un po' tragico. L'approccio definitivo all'album, com'è nata però musicalmente? L'idea del musicare questa opera che Davide aveva in mente? Quando lui mi ha chiamato c'erano già dei brani, no? E quindi io ho cercato di creare una specie di sequenza, no? Con un'idea in testa e adattandomi anche ai brani si stavano costruendo. E quindi è stata una cosa, si dice sinergia. È bello, adesso si usa sinergia. Ok, giusto. Perfetto, all'inizio era così, devo dire, però adesso è quello che arriva, mi serve un brano così. Voglio per la fine, insomma, si permette, insomma, un paio di cose. Quindi insomma, sinergia. No, quello sì. veramente. Quindi chitarra parte di Simone, tu sei il vocalista che guida tutti gli strumenti, la tastiera di Angela e Carlo alla batteria. Stasera è una percussione ridotta, però è una percussione da ritmo, da rumore, da percuote. Esatto. Chiaramente siamo in uno studio radiofonico, quindi abbiamo determinati spazi, anche se qualcuno ha portato qua una maxi batteria. Sì, non c'era problema. Ha portato una maxi batteria. Non ve l'ho detto al telefono, però qualcuno ha portato una maxi prossima volta. Maxi batteria. E quindi utilizzando una maxi batteria, fisicamente il personaggio che sono io, che sono al centro sempre dell'universo qua dentro, nella Fossa dei Leoni, avevo delle difficoltà proprio di udito, perché una maxi batteria. Vabbè, ti credo. Una maxi batteria. Bene, adesso come si dice, voltiamo pagina, in senso positivo, e apriamo la finestra del disco, il primo pezzo che abbiamo scelto. Dante, diciamo il titolo del disco, non abbiamo un titolo. Abbiamo ancora detto un titolo? Allora il titolo Tuman è il titolo, allora, è il nome del personaggio diciamo, esattamente, sì. principale, la storia, è il protagonista della storia. Allora, l'ambiente è quello assiro, assiro babilonese. Io l'ho preso dalla Bibbia, perché avevo cambiato diversi nomi, insomma, mi correva il nome del protagonista ed è effettivamente un principe elamita, no? Che però in questo caso si reca in Assiria, no? Insomma, la storia. E quindi mi è sembrato un nome che poteva andare bene, anche perché non è inflazionato. Assolutamente non inflazionato. Assolutamente non inflazionato. È un vostro marchio di fabbrica per questo. Benissimo, allora questo è il nome, dal titolo, cioè dal titolo anche del disco, dal titolo all'opera, al progetto praticamente, sì, possiamo dire. Sì. Progetto che comincia con cosa? Noi vogliamo far sentire un primo pezzo agli ascoltatori, che chiaramente ci saranno molti che sono interessati a questo genere, molto particolare ma molto interessante. Comincia con... Cosa abbiamo scelto in scaletta, Simone? Ti ricordi? Cosa che avevi... Traccia 1 e 2. La traccia 1 e 2, sì, vai. Per dare un unicum, un continuo ai primi due tracce. Dico, ho difficoltà con i titoli perché noi, ecco, così brevemente ti dirò, quando lo proponiamo dal vivo... non vogliamo lo so, riproponiamo così. Sono d'accordo con te, però purtroppo lo so, tagliare un concept è una brutta cosa, non si devono tagliare mai i concept. Concept sono fatti per non essere tagliati. Per cui io non so i titoli alla fine, ti dico la verità. Va bene, adesso sentiamo la traccia, la traccia 1 e 2 che sono collegate. Ecco, attaccate. Allora, comunque adesso visto che l'ho anche letta, sì, la traccia 1 e 2. Cioè, la prima è l'overture. Famosa. Ci deve essere l'overture. Assolutamente, che opera è senza l'overture? Quindi ci sono temi che ci sono. Eccola qua. E poi c'è l'inizio che è la battaglia. Perfetto. Adesso la sentiamo tutta assieme. Thank you. Wave. Rock Wave, l'onda del rock. Rock Wave, l'onda del rock. Sì, abbiamo sentito i primi due pezzi, abbiamo praticamente aperto la finestra sul disco e ci sono tanti riferimenti. Innanzitutto il riferimento classico di Angela. Angela ha praticamente creato questo contorno classico, poi l'inserimento della voce di Davide, chiaramente il vocalist della band, che porta avanti un certo discorso, e le chitarre tue indixiane a momenti e la batteria di Carlo. Quattro diversi colorazioni per un'opera rock, l'opera per un'opera, Davide, per un'opera. La classica che si mescola col rock, che si mescola col prog, che si mescola con le vostre conoscenze musicali. Hai fatto un'opera. Sì. Hai un progetto. Sei troppo buono. Vabbè, avete fatto un'opera. Io soprattutto ho pensato ai personaggi. Hai pensato ai personaggi. In altri dischi, secondo me, i personaggi non sono molto valorizzati. Mm. E qui invece, insomma, ho pensato di creare una serie di personaggi, almeno 4-5 principali, che è di riuscire a, insomma, sottolineare le sfaccettature, insomma. E la musica dà le sfaccettature, assolutamente. La musica di Angela, e non solo la musica di Angela, un po' di tutti, perché la musica è fatta assieme. Siete in quattro diverse momenti, quattro diversi input, sì, per fare un concetto musicale, un canovaccio che poi avete sviluppato grazie alle tue intuizioni dal personaggio. E dal punto di vista, tu hai detto le diverse sfaccettature, il diverso modo di vedere le cose sul palco, come viene sistemata, come viene mostrata al pubblico questa opera rock? Cioè, con quali movimenti? Qua hai toccato un tasto dolente. A proposito, dopo dobbiamo parlare del discorso del 2008. Parliamo un momento del discorso del 2008, così finiamo in bellezza. Sì, quello che accennavamo prima. Ecco, niente, era semplicemente da porre l'accento a quello che poi è stato il momento veramente importante, che è stato appunto nel 2008, quando io e Davide eravamo in una situazione così di stand up. Sì, quasi. Ecco, il batterista era andato negli Stati Uniti, il bassista sì, c'era, non c'era, vabbè, e adesso che si fa? E una sera stavamo appunto chiedendoci cosa si fa adesso, abbiamo incontrato Angela. Mi ha detto: ma guarda, già ci conoscevamo un po' così di vista. Una ragazza che suona le tastiere, il piano, esatto, quindi di estrazione classica. Esattamente. E ci conoscevamo così perché siamo dello stesso paese, per cui va bene, insomma, nonostante la differenza d'età, diciamo. Poi così mi ha chiesto: ma adesso cosa facciamo? Tu cosa fai? Ho chiesto: ma avrei voglia di suonare, però effettivamente non è che trovo delle situazioni adatte. E allora Angela? Angela, spiegalo tu. Era un periodo appunto che non avevo il gruppo fisso, ma mi capitava di suonare magari in alcune situazioni così saltuarie, e quindi la domanda appunto di Simone è arrivata, insomma, giusta, e subito poi ha portato anche tuo fratello. Subito, infatti, ho detto, sì. Siccome mi avevano detto che non avevano nemmeno il batterista, io ho detto: bene, c'è mio fratello che suona la batteria, e quindi abbiamo detto: facciamo una prova. Tutti era dilettevole, come sì. No, veramente avevi detto: è un ragazzino che rompe un po' le scale. No, scusa. abbiamo fatto una prova, ovviamente per partire con alcune cover. Siamo che messi cover? D'accordo, esatto. Cover dei Deep Purple, di Ozzy Osbourne, anche Uriah Heep, Uriah Heep. Frontman, sì. Anche Uriah Heep. Ti vedo assolutamente. Sì, più che altro dove appunto canzoni dove c'è anche l'organo Hammond, certamente, cose così. È importante. E poi dopo un po' di prove Simone e Davide ci hanno esposto questa loro idea. Davide, cosa ti ha esposto? Perché l'oggetto, l'idea è partita da lui. Cosa ti ha esposto? L'idea, perché ha detto sì, facciamo. Noi non sapevamo di questa idea che avevano in mente, a cui stavano lavorando. Sì. E ce l'hanno proposta appunto raccontandoci la storia di questo principe, questo appunto pezzo, di Tiuma. Ripetiamo, Tiuma. Tiuma. Esattamente. Non è semplice, sì, sì. Ti deve entrare in testa. Tiuma parte prima. Questa è la parte 1. Infatti, prima. Ci hanno raccontato, Davide ci ha raccontato principalmente la parte 1, perché la parte 2, sì. La storia era già nei suoi punti principali già stesa, sì. Però mancavano appunto i dettagli, certo, diciamo, certo, della sì. Parte 2. Praticamente le musiche. E anche sì. Appunto ci hanno raccontato questa storia, dicendo che il progetto di fare un concept, di fare un'opera rock appunto che fosse tutta collegata. Certo. Ci hanno spiegato un po' tutto e noi, sia io che Carlo, siamo rimasti super entusiasti. Non avremmo mai pensato, insomma, all'inizio, almeno io, a una cosa così, e mi ha talmente preso da subito e, abbiamo subito, sì, subito ci siamo subito uniti, insomma, per fare. Allora, ritorniamo al discorso del palco. Cosa fate? Cosa fate vedere? Perché un'opera rock deve essere anche fatta vedere, oltre a fatta sentire. Ma diciamo, guarda, che francamente un po' così. Non è che siamo così tanto famosi da poterci permettere un palco adeguato, una coreografia adeguata. Esattamente. Sì, è vero, a volte no, in effetti. Però Davide magari si potesse fare. Sì. Come no, sarebbe molto contento di fare. No, ecco, noi cerchiamo di proporla, come dicevo, la proposta che facciamo è quella di eseguire per intero Human, quindi non ci sono interruzioni tra un brano e l'altro. Bravi, complimenti. Per cui mica lo semplice. Riproponiamo. Sì, è abbastanza impegnativo. 50 minuti da disco, sì. E poi live sarebbe lievitato, non te sì, vuoi dire, o no? Sì, beh, guarda, ci divertiamo tantissimo in alcuni tratti, ad improvvisare anche, ad allungare quelle che sono, e lasciando anche spazio a quelle che sono magari interpretazioni personali, può esserci un solo di batteria. Ci fermiamo un secondo. In genere nelle opere rock, quando si suona dal vivo si dilata, sì. si allarga il vocal, si allarga la batterista, e soprattutto che si allarga notevolmente quando pesta, chiaramente stasera no, è impossibile, però no, ma Carlo vedo che nonostante Mingherlino, ma sta da fare sicuramente, quindi vi allargate, ma allargando il discorso del pezzo, snaturate il pezzo oppure no? Beh no, quello no, assolutamente. Cerchiamo sempre di mantenere, cerchiamo di riproporlo. La linea rimane, sì, il filo conduttore deve rimanere, anche perché va a distogliere la persona che ascolta da quello che è la storia di per sé, per cui le critiche sono state tutte positive di questo disco. Io ne ho lette parecchie, sono state tutte positive. Quindi sì, positive, sì, nel senso che non è stato snaturato anche nel discorso del live, rimane collegato. Quello è importante. Sì, diciamo che questa, per carità, fammi sentire un po' importante, nel senso che io avrei potuto avere veramente dei bravissimi musicisti a fianco ed effettivamente con una maturità ottima, una grande maturità, che è quella che sì, ci si può permettere magari di lasciare spazio a qualcuno per la propria, così, per il proprio, non so, per il proprio capriccio di fare un qualcosa, sì, un piccolo solo, una parte, certo, diciamo così, certo, dove può risaltare sicuramente, certo, al di fuori del disco, per carità, però la maturità di tutti è quella esattamente di sapersi contenere, fermarsi al momento giusto, certo, sì, e di lasciare esattamente, e di essere al servizio della canzone, non al servizio del musicista in sé. Certo, questa è una cosa bella, al servizio della canzone, e siamo al servizio della canzone anche questa, in questo momento 22:33 quasi, suoniamo che cosa? Adesso Davide si alza come frontman, deve alzare, e cominciamo a suonare. Suoniamo. Allora, che pezzo avete scelto per iniziare questa cavalcata dal vivo qui a Radio Veneto? Io direi che, visto che è imminente l'uscita della seconda parte, stiamo lavorando. Quando uscirà la seconda parte? Guarda, presumibilmente per maggio, non ci credo, ma forse giugno sì. Quindi stiamo dietro l'angolo. L'avete già suonata dal vivo la seconda parte? Qualcosa sì. Qualcosa, sì. Qualcosa dovevamo anticiparlo, abbiamo voluto anticiparlo perché veramente tre pezzi, detto ci sì, tre pezzi. Esatto, tre pezzi li abbiamo già fatti. E io direi, visto che abbiamo iniziato con il primo pezzo della parte 1, esatto, primo secondo, esattamente, a questo punto, se ti va, potremmo fare il primo pezzo, quello che aprirà la parte 2. Per me è assolutamente una novità, non l'ho mai sentita, adesso la sentiamo assieme a voi e assieme agli ascoltatori. Ok. Ok. Ci prepariamo, qualche secondo. Impensabile, perché sì, è tutto dal vivo, quindi rigorosamente anche lo spostamento è dal vivo, tutto dal vivo. Eh sì, assolutamente. Thank you. One time I thought my queen would be my whole life, that everything would live by her light. And now I'm drowning in this dark deep pain. Once I loved her even more than life. And now the doctors, my will and my sight. Beh, musicalmente un pezzo molto bello. Poi adesso Davide mi racconta la seconda parte, la storia che prosegue con questa numero due. Musicalmente il piano piano di Angela mi ricordava un po' l'impressionismo francese, almeno in qualche momento. Poi chiaramente la chitarra di Simone ha colorato anche in senso zigano, cioè veloce, mediterraneo leggermente le cose. E la percussione di Carlo è andato, ha sistemato un po' la ritmica. Adesso Davide mi deve raccontare quella voce sempre possente che ha, ma stavolta non ha gridato, si è limitato, ha danzato. Sì, noi abbiamo scelto di una dimensione acustica, questo sarebbe la parte centrale del primo brano che apre, di che apre la seconda parte del disco, la parte centrale, che è quella che era più la fine della, cioè la seconda che cosa racconta il personaggio, in che situazione è? Il personaggio è un valoroso principe che però muore in battaglia. Muore in battaglia. No? E un demone va a cercare il suo corpo, sì, nella notte, infatti il primo brano, e lo porta agli inferi, dove lo fa incontrare con il signore dell'oscurità, che è questo. Ci sono tutti nomi tratti dalla Bibbia, Oriax, Berkal, sono, certo, tutti. E questo capo, diciamo, dei demoni, qui insomma penso che sia facile sentire l'eco di opere già, comunque gli propone praticamente l'immortalità se però riuscirà a perdere, diciamo, a rompere l'armonia che c'è tra questi, questa lotta continua tra il bene e il male. Esattamente, quello, no? È il discorso, parte da quello, tra il re Assiro, no? e la moglie, che, certo, insomma, si amano così. Il principe, non conoscendo insomma re, nella regina, accetta, torna sulla terra, sulla terra. Al loro palazzo, viene, si presenta, dice di aver perso tutto, ha perso l'esercito, ha perso la battaglia, e quindi chiede di essere accolto, insomma, da questo re, che insomma ovviamente è più anziano di lui, e così viene accolto nel palazzo, insomma, perché insomma, è una persona che veramente molto, e conosce la regina, di cui però non solo, insomma, cioè, qui si innamora prima lui che non la regina, e questo tocco shakespeariano si introduce cioè, si introduce e conoscendo sia il re, al quale bene o male si sente in debito, certo. E la regina che stima e che comincia a sentirsi in colpa, esatto, per aver ha dei problemi, questo... sì. Perché l'ho fatto, certo. E quindi comincia a, insomma, il dubbio lo esattamente più, il dubbio lo tormenta, vorrebbe tornare indietro, vorrebbe annullare questo patto scellerato, certo, ma invece insomma ormai purtroppo ha stretto questo accordo, e quindi e questo è questa parte che parla all'interno della corte, si chiama court appunto, vede il consigliere più fidato del re che gli instilla il dubbio, perché dice guarda che insomma cominciano ad essere un po' troppo intimi, insomma tua moglie forse e quindi stile il dubbio, dice, il dubbio c'è sempre in certi momenti. La parte che abbiamo eseguito adesso è proprio il discorso del re, in cui comincia a manifestare questo, insomma, questa tensione con la tanaglia, questo, e però prima c'era la parte che riguardava proprio il consigliere, e poi alla fine invece c'è proprio il coro dei cortigiani con insomma che lo spingono a, insomma, a fare qualcosa, a reagire, no? E a lottare. Questa sarebbe la prima canzone, che è molto più lunga di quello, certo. Che io voglio capire il perché dell'uso bello del piano impressionista in questo pezzo. Chi la, cioè, è stata l'Angela, però ci sono stati altri, penso di averla massacrata, ci sono stati altri tre cervelli che hanno imposto, per modo di dire, hanno suggerito all'Angela questo piano impressionista. Sì, ma diciamo l'arpeggio questa scala che hai fatto qua, questo arpeggio, diciamo che è il tema, l'arpeggio della mano sinistra, che è il tema portante di questo, di Court. A me ricordo The Court of Crimson Cream, non ricorda, però il titolo The Court of Crimson Cream, anche quello era una corte, anche quella, anche The quella era una Crimson corte. Cream. Si parla di re Cremisi, anche là si parla di re, cioè la musica non è così lontana, ci sono tanti dei riferimenti, punti, sono tanti dei punti comune. E questa... Non sei d'accordo? Sì. No, non dico, è che sono dei riferimenti talmente. Sì, ma talmente... In questo pezzo non c'era il prog, però il The Court of Crimson Cream è sempre considerato uno dei più grandi, una più grande opera prog. Sicuramente, che sicuramente. Ma questo discorso del re, del male, del bene, dell'amore, della bellezza, fa parte della vita di certe cose, musicalmente parlando, del melodramma. Assolutamente del melodramma. Dimmi. Questa è un arpeggio, diciamo, un tema principale che è di tutta la canzone, che all'inizio di questo brano viene fatto dal basso e è un collegamento dell'ultimo brano della parte 1, che è l'arpeggio di chitarra finale. Bello questo, perché un concept deve essere continuo. Appunto, la cosa principale che c'è nei nostri brani, appunto, è che certi temi vengono ripresi magari da altri strumenti, tipo un tema di basso può essere ripreso da un tema di chitarra. A volte sono nascoste queste, non sono così apparenti, può essere un arrangiamento che quindi si trova magari se una persona magari a primo approccio ascolta di più la voce, la melodia principale, magari ci sono certi collegamenti che sono un po' al di sotto, però vengono fatti appunto perché, anche se è stato diviso dalla parte 1 alla parte 2, l'opera è completa. Che difficoltà e quindi, c'è? Dimmi. Sì, la difficoltà è tenere 55-60 minuti tutti assieme, senza al di là dei giochi, tra virgolette, degli inserimenti, dei diversi gli strumenti. La difficoltà è dei 60 minuti da tenere assieme, e anche di vincere il pubblico per 60 minuti. Sì, è vero. Quello. Sì, è fondamentale. Che chiaramente non dimentichiamo che è una cosa che adesso, con l'uscita della seconda parte, ci proponiamo di farla per intero. E quindi vorremmo farla per intero. Finalmente il finale di quest'opera, e quindi così portarlo. La difficoltà, appunto, è non staccare mai la testa, diciamo, non c'è lo stacco magari tra un brano e l'altro, dove di solito magari il vocalist fa due parole oppure presenta il brano. Ma il vocalist, secondo me, quando si stacca, lascia poi suona, volutamente si stacca, perché ci sono le parti così, ma si stacca per dare un certo colore ai giochi della musica. Sì, sì, sì, è vero. Infatti, io la penso così. Bocca, sì, in questo senso, Davide. No, in questo senso. Infatti, la difficoltà è appunto tenere sempre sì. Come se fosse una canzone unica. Esattamente, tenere sempre alla un corda, film. In senso positivo. Un film, sì. Sempre tenere sempre sulla corda, in senso positivo, l'ascoltatore. Non so chi vi ascolta dal disco, ma chi vi ascolta dal vivo. Sì, anche dal vivo, che è una bella. Alla fine lo scopo, sì, il disco è una bella soddisfazione, però la cosa che ci entusiasma di più è proporlo dal vivo, ovviamente. Siete un gruppo live, sì, Antonomasia, uno sì. Che fa un'opera rock di 50 o 60 minuti dal vivo vuol dire che ama farlo. Certo. Sì, sì, assolutamente. Sì. Se no, solo incide e basta. Beh, come dicevamo prima, effettivamente quello che noi vorremmo un giorno sarebbe quello di avere la possibilità di mettere l'opera anche in teatro, cioè di rappresentarla anche da un punto di vista teatrale, certo. Quindi con il supporto di quella che è una compagnia, con le comparse, interagire certamente, con l'arte, interagire nell'arte, certo. A 360 gradi. Sì, anche perché, come dicevo prima, non è che siamo così bramosi di dimostrare qualcosa a qualcuno a titolo personale, no. Siamo al servizio di una canzone, al servizio di quello che è un'opera, un lavoro che dove tutti ci abbiamo messo sangue e sudore, per carità. Sangue, sudore e lacrime. E lacrime. Esatto. E quindi, ecco, tutti lavoriamo affinché venga fuori il meglio. Certo. E la cosa più bella sarebbe appunto di rappresentarla anche con il supporto infatti anche nei brani, questo. Brani strumentali, per esempio, che sono stati creati immaginandoci delle scene. Appunto, certo. Delle scene sia descritte da Davide tra un brano e l'altro, e quello sarebbe proprio l'ideale da rappresentare con degli attori. Insomma. Beh, io ho sentito sentendo adesso questo pezzo, assolutamente la prima volta, sì. A me è piaciuto molto come impostazione. Voi direte, questa è un'impostazione acustica, non so come sarà l'elettrica, però da acustica dava benissimo, è un po' diversa dall'elettrica. Sì, un po' diversa. Sì, leggermente, molto diversa. Leggermente. Bel po'. Vero? Doppia cassa, non c'è qualche. No, è dosata, va bene. Sentiamo la traccia numero 8 che abbiamo scelto, ti ricordi il titolo? Arrival. Ecco, la sentiamo. Ecco perché non me la ricordavo. Perfetto. Radio Veneto. Dai colore alle tue frequenze. Rock Wave. Rock Wave. L'onda del rock. Rock Wave Live. Ok, prima di parlare un momento di questo pezzo che è proprio rock, rock con la R maiuscola, parliamo di tutto, dobbiamo salutare e ringraziare Gianluca Merlin, che è un vostro estimatore. Sì, certamente. Salutiamo Gianluca. Salutiamo Gianluca. E il nostro direttore artistico Alberto Pisco, che abbiamo voluto in questa sì. Grazie. Parliamo di questo pezzo decisamente rock. Questo è un pezzo rock abbastanza veloce, quasi punk in alcune accezioni. Adesso, visto che la chitarra l'ha sciolinata con la Ibanez l'hai fatta, adesso mi racconti perché questo bello è solo con l'Ibanez. No, oddio, allora, certamente, come si diceva, il concept in sé si compone di vari momenti, di varie parti. Questa appunto è una parte importante che adesso Davide ci spiegherà chiaramente. Per cui c'era bisogno adesso si alza in piedi, certo, c'era bisogno di un bel po' di energia e quindi abbiamo cercato di mettere tutta l'energia possibile per questo pezzo. Davide ha detto che ci siamo riusciti, quindi vabbè, ha detto. Ma quando Davide fa un testo, ha fatto un testo, gli ha dato l'input per fare la musica, o la musica è nata dal testo di Davide? Alla Mogol Battisti. Battisti scriveva la musica e Mogol scriveva il testo. No, non è così. Di solito succede, c'è prima la musica. Poi io, il processo che segue è quello di ascoltare la musica tante volte finché. Insomma, trovo qualcosa che mi sembra che si adatti, insomma, all'atmosfera della musica. Quindi questo sarebbe proprio il punto in cui c'è il dialogo tra il principe. Tecnicamente, che dialogo c'è in questo pezzo? Sì, si chiama Oath, che sarebbe il patto. Il patto, no? Patto fuoco, quindi, di fuoco. Insomma, è il momento in cui c'è questa proposta e il principe accetta e quindi insomma è questo dialogo, ma un dialogo abbastanza sì, perché qui pesante, parla quasi sempre il demone, quindi insomma, quindi chiaramente esasperato più energico, esattamente, insomma, musicalmente deve essere esasperato parte, quindi l'Ibanez toc, insomma. Sì assolutamente. No, beh, insomma, è uno strumento che mi soddisfa da un punto di vista di versatilità, per cui anche questi cambi di sonorità abbastanza improvvisi, come abbiamo avuto magari di sentire, certo, con sono stati, possono essere permessi tranquillamente anche in situazione live, per cui ecco, uno strumento versatile. E Carlo come si comporta? Benissimo, però io faccio una domanda tra pochetto. Come si comporta questo pezzo così violento, nel senso molto ritmico, decisamente, perché ha un testo importante, è importante per il ragionamento dell'opera? Allora, diciamo che, come ha detto Davide prima, il testo lo scopriamo dopo anche noi successivamente. Magari sappiamo come l'atmosfera più o meno del brano e io comunque arrivo dopo, perché i musicisti ovviamente sono Angela e Simone, che io sono l'ignorante del gruppo, che vuol dire che ignori no, che non sai. Arriva a casa e gli dice all'Accelentano, bene, ignori, non sai. Avete fatto questo brano? Sì te lo diamo. Allora mi danno il brano, io me lo ascolto, gli faccio la batteria sopra, dopo magari vado a prove, faccio bene o male quello che ho pensato di fare e mi dicono se può andare bene o meno. Insieme, quando si è definito la struttura del brano, si scelgono, non so, i passaggi, piuttosto che i tempi, piuttosto che ne so, uno stacco, insieme crescono. Dimmi, scusa. No, diceva che appunto, scusa, sto interrotto. È vero anche una cosa, che comunque la struttura, l'ossatura, diciamo, lo scheletro del brano nasce, sì, effettivamente, da quello che può essere una melodia, che a sua volta la melodia nasce sull'input. Fai ancora la chitarra acustica o no? Sì, con il piano, anzi, suona il piano. Ognuno prende uno spunto, quando lo spunto c'è, che, ripeto, spesso e volentieri, più delle volte nasce appunto dall'idea di Davide di creare, insomma. Creiamo qualcosa che sia, cercate di farmi un. E sì, quindi magari dice, non so, mi servirebbe un lento. Un vocalist trainante, allora, in ogni caso. Sì, trainante. Mettiamo i platters, vabbè, no, ok. No, ecco, diciamo così, la struttura del pezzo, l'ossatura nasce e cioè, ognuno di noi poi, perché effettivamente qua sveliamo magari qualcosa, ma non è che facciamo così tante prove assieme, per cui siete bravi ognuno allora. Beh, no, insomma, se non fate tante prove per tenere 60 minuti bisogna fare le prove. No, vabbè, quello sì, ognuno sì, ne facciamo qualcuna, uno o due magari prima di qualche serie di concerti. Diciamo che adesso con la registrazione del CD, del disco nuovo, magari ci troviamo un po' meno, perché le parti sono state bene o male definite, predisposte. Esatto, per cui e comunque vabbè, ognuno porta poi la sua idea e porta il suo contributo alla canzone stessa, perciò non è vero dire che, come afferma Carlo, che lui è l'ignorante, perché spesso e volentieri tanti passaggi lo sapeva, però una volta un episodio, praticamente mi hanno dato l'ultimo brano del secondo CD praticamente, e io me lo suonavo, che io devo ancora sentire, per sì. io lo suonavo, me lo provo, me lo riprovo, lo ascolto, non riesco a divertirmi. In che senso riesci a divertirti? Non riuscivo a entrare nel discorso, non riuscivo ad entrare nel brano. Allora sono andato a casa loro, gli ho detto: ma qua c'è da cambiare qualcosa, insomma. Lì ho dettato legge io, no? Allora abbiamo costruito il brano insieme in modo che io riuscissi a divertirmi nell'esecuzione del brano. Vedi, il batterista è fondamentale. Sì, sì, sì. Sicuramente. Vabbè, suona senza. Tutti, perché di solito chi suona, chi fa, chi crea, diciamo, magari la melodia del... Poi ovviamente ha bisogno anche degli altri, che da esterni, certo, perché certo. Uno la fa sua, la melodia, e non è più critico nei confronti della stessa, quindi ha bisogno delle altre persone che gli dicano: guarda, devi fare così. Adesso cioè abbiamo fa schifo quella melodia lì, no. Come spesso succede. No. Sono 22:58, abbiamo tempo per un altro pezzo live e dopo facciamo il giochino. Okay. Che cosa ci fate sentire live, seconda parte, secondo pezzo, scusate? Esattamente il secondo pezzo. Perfetto, del disco no? Numero uno, allora. Sì. Ok. No, del disco numero due. Nel disco numero due? Sì. Nel disco numero nuovo. Inedito anche questo. Sempre inedito per me, inedito, e per gli ascoltatori, chiaramente, che non conoscono il numero due come me, chiaramente, che non è ancora uscito, uscirà fra qualche mese, no? Abbiamo detto. Ok. Siamo pronti? Ok. Strong and gentle as he lays down my hair, his eyes speak of unbridled youth, there's fire in its glance, the warmth of his fierce body, a venom in my blood, the thickest walls of my defense are melting into mud. The ghost of my betrayal is pounding in my brain. Flame is high, the passion cries, but all will end up in a sea of What's inside me I don't see clearly now. I've always thought life was simple, black to black and white to white. But now my heart is torn in two, and I don't know what to do. There's no time, life is ruthless, pushing me to the void. There's no way to avoid this power of fate that will turn me down to face my inner self, to ring the devil's bell. Allora, due chiavi di lettura, o tre chiavi, facciamo due chiavi di lettura per questo pezzo. Una chiave di lettura iniziale, molto abbastanza lento, levigato, quasi folk, e poi una seconda chiave di lettura molto più mosso, molto più accentuato, soprattutto nel tuo uso delle tastiere. Come mai questa chiave di lettura diversa? Perché i momenti del pezzo, della storia sono diversi, chiaramente, le colorazioni sono diverse. Sì, i momenti, vari momenti, questa... tre momenti diversi, e infatti sono resi diversamente dalla musica, insomma. Chiaramente. Su un articolo c'era scritto che David in alcuni momenti tende al blues, non in questo pezzo, però lui tende al blues leggermente, Davide, cosa dici? Questa tendenza al blues, bella cosa questa tendenza al blues. Sai, sinceramente io non me ne sono accorto. io rispetto, sai, come John Lennon diceva, io faccio le canzoni, dopo ognuno le interpreta come vuole, giustamente. Qui non mi sembra, perché... Vai, dimmi. A me probabilmente Pink Floyd l'inizio, sinceramente. Però sai, no, ma sì, ma il discorso della vocalità, qualcuno ha scritto, sì, che tu tendi al blues. Io forse sono stato contaminato dal fatto di aver cantato per un sacco di anni con un gruppo in cui facevamo molto rhythm and blues. Sì, ma non è mica una cosa negativa, è una cosa positiva. No, per carità. Anche se sei Pink Floydiano, tra virgolette, non importa assolutamente nulla. No, questo era merito di Simone. Esattamente. Brano. Sì, magari si sentono queste cose, forse, anche se io penso che non sia molto difficile cantare bene il blues, e io non credo di essere così bravo, insomma, soprattutto per certe tecniche, ritardi, eccetera, eccetera. Però forse qualcosina si sente, forse sì. Sono d'accordo con te. In ogni caso, il pezzo, come abbiamo detto, pezzo nuovo che io avevo sentito per la prima volta, aveva giustamente due chiavi di lettura, perché la storia aveva delle chiavi, delle colorazioni diverse, la storia della seconda parte di questo, questo episodio, sì, certo. Chiaramente doveva essere così. Sì, qui c'è una progressione, esattamente. Uno stato d'animo. Progresso poi lenta, poi il discorso si amplia, si rende più ritmico e poi si acquieta un'altra volta. Deve essere così. E la musica è fatta così. Certamente. Benissimo, 23:07, adesso vi sedete. Facciamo riposare Davide un secondo, perché non toccherà a lui. Abbiamo deciso di fare il famoso gioco, i 5 dischi da portare su un'isola deserta. La regola fondamentale dopo tanti anni è sempre la stessa: non si può copiare. Okay. Abbiamo deciso democraticamente di far partire una signora. Ma democraticamente ho scelto io. Ho scelto io e va bene così. Allora, vai Angela, la nostra tastierista. Come entità musicale che tu ami particolarmente, al di là di Purple, di Uriah Heep che già hai citato. Ma uno dei dischi che fin da piccola ho sentito. Poi comunque anche sì, anche perché no, ma io giocavo a calcio. Bene, ma si può sentire musica anche giocando a calcio. Mio papà è sempre stato appassionato di musica, suona anche la batteria, ci ha cresciuto tutti e due, insomma, nel rock. Nel rock. Fatto bene. Uno che mi ricordo particolarmente caro, insomma, è Selling England by the Pound dei Genesis. Quindi le tastiere all'unisuono. Sì. Principalmente è un disco che ascoltavo, anche da piccola, quindi Genesis è l'apice della loro celebrità. Sì, sì. Poi un altro, diciamo, uno dei Deep Purple, io li porterei tutti quelli dei Deep Purple, però adesso Michele sta cercando di prendere anche i Deep Purple, intanto ci sono i Genesis in sottofondo, va bene. Diciamo Deep Purple in rock. Child in Time, devo sollevare Child in piedi 9 minuti di gioia incredibile. Sì, infatti io sono molto legata a John Lord, nel senso, come poveretto se n'è andato un po' come tastierista, cioè emondista e pianista grandissimo, perché veramente cosa ne pensavi del progetto che lui ha fatto con la London Symphony Orchestra? Una bella cosa, sì, lui è sempre stato compositore, grande compositore e pianista, e penso che sia il sogno di tutti i pianisti suonare con l'orchestra. Con la Landon Symphony Orchestra. Ah, poi tra l'altro. Sì. Esattamente. Poi un altro potrebbe essere Scenes from a Memory dei Dream Theater. Che anche quello mi ha. Un gruppo di un certo peso, Dream Theater. Quello mi ha portato. È stato il primo che ho ascoltato di Dream Theater, che mi ha avvicinato al gruppo, e diciamo è un'evoluzione del prog più moderno, insomma, uno dei gruppi. E quello non so se c'è, dai, è un po' difficile. non si sa mai. Vai Angela, poi è difficile. Te l'ho detto io. E siamo arrivati al quarto, mi pare. Possiamo dire Atom Heart Mother dei Pink Floyd. Quello è una bella cosa, quello è un CD che è tutto, infatti ha dei punti che sono tutti collegati, certo, è un concept album, che è un concept album, e appunto sì, non so se lo trovi Atom Heart Mother, ma può darsi, è da ascoltare tutto insieme, appunto ha molti anche rumori sotto, suoni. Io sono contento che tu hai citato Atom Heart Mother, perché lo sai la storia, che loro stessi hanno sempre ribadito che non l'hanno mai amato, perché loro ha scritto un pezzo che si chiama If. Più bello di If, dove c'è in Atom Heart Mother. Esattamente. Penso che If sia il massimo, proprio nella stella del firmamento musicale dei P. Un brano meraviglioso, 4 minuti di totale catarsi musicale, secondo me. Eppure non l'hanno mai amato. Abbiamo finito anche con perché, te. Sì. Dimmi perché? No, dicevo che appunto anche l'uso che hanno, c'è il coro dentro quello lì, che è bellissimo. Bellissimo. Quindi disco, al di là della copertina che rimarrà nella storia, è vero, anche quella di Atom Heart Mother rimarrà sempre nella storia. Tocca a te, caro chitarrista Simone, stasera. Beh, acustico. Sì, vabbè, allora qualcuno me l'ha fregato, Angela, d'accordo, ma comunque. Ma le regole sono ferre, non si può copiare. Non si può copiare. Vabbè, Led Zeppelin 4 sicuramente, il quarto. Perché? Perché al massimo, adatto, perché sì, c'è adoro, di tutto. Sì, c'è di tutto, veramente. Adoro la progressione di Starway to Heaven, chiaramente. La scala sì, meravigliosa, un, sua. Un connubio elettroacustico fantastico, certo, che ha portato veramente a un inizio che così è veramente una questa grande scalinata e va, insomma. Sì, sta cambiando palla, sì, a Capitele. Vediamo se riesce. Sì, per quello lo trova sicuramente. C'è assolutamente Starway to Heaven, può dare, okay, può essere come il sottofondo di. Sì, sicuro. Va bene. E poi dove andiamo? Dove andiamo? Vabbè, da chitarrista potrei tranquillamente dire il primo dei Van Halen, grande rivelazione per all'epoca, e sì, grande cruccio di, certo, tutti i chitarristi. Certo. Non è che adesso ormai troviamo le trascrizioni. Ma ha fatto qualcosa le trascrizioni di Eruption, che è stato lo solo famoso, ormai si trovano anche fatte dal De Sanctis, illustrate da Dorei. Vabbè, insomma, cioè, ormai le ha fatte tutti. Sì, le hanno fatte tutti. Però all'epoca è stato chiaramente una botta di quelle. Esattamente. Beh, adesso ha fatto disco di recente, qualche tempo fa. Molto bello. Ha avuto il successo che meritava e te l'hanno messo. Questa qua. È quella. Vabbè. Quello è un classico dei classici. Siamo arrivati due, vero? No? Sì, dunque, il terzo. Giusto per lasciare spazio agli altri, anche cosa. Cito Nina Pizzi? No. Ma perché puoi citare anche Nina Pizzi? Democraticamente no, puoi citarla. Vabbè, più che concerti brandeburghesi, sicuramente di Bach. Così, è un rocchettaro, come Mozart è un rocchettaro, anche Bach certamente, è un rocchettaro. Sì, è il primo rocchettaro della storia, secondo certamente me. Certamente, possiamo essere d'accordo. Siamo arrivati a tre, eh? Sì, a tre. Sì. Judas Priest. Sì, Judas Priest, qualsiasi di Judas Priest, un'energia veramente. E sono tutti uguali. E sono tutti uguali. Vabbè, adesso per favore anche sono tu. Sono tutti uguali, una piccola polemica, tac. No, scherzo, anche a me piace. Ecco. Vabbè, insomma. Ovvio. E poi ultimo cosa facciamo? Ultimo, vabbè, potrei dire Madison Wars, dai. Dream Theater, anche io. Anche te, Dream Theater. Come mai vi piace talmente questo gruppo importante, musicalmente molto difficile, anche complicato, ma di grande energia, di grande potenza, di grande fascino? Ma hanno, allora, secondo me sono stato uno di quei gruppi che comunque hanno lasciato un segno. Molti segni, secondo me. E sono questi i gruppi importanti, i musicisti importanti, quelli che lasciano il segno, quelli che per primi magari fanno qualcosa. È vero magari che non tutto è stato inventato, fra virgolette, dai, certo, Dream Theater, però hanno avuto il grandissimo merito di portare alla ribalta, diciamo, quello che è stato poi definito il metal prog, il prog metal, quello che vuoi dire tu, però insomma l'hanno portato chiaramente all'ascolto anche di chi forse per certi versi non. L'hai trovati, complimenti. L'hai trovato. Ok. E gli altri grandissimo. Perché io ho conosciuto una band che è venuta qua che per divertimento faceva la cover band dei Dream Theater. È difficilissimo, sì, è difficilissimo riprendere, perché sono musicisti super musicisti con la M maiuscola, tecnicamente incredibile. Però a me piacciono un sacco i Dream Theater, però ricreare l'atmosfera che magari creavano i Genesis o i Jethro Tull o i King Crimson forse è ancora più difficile rispetto a suonare i brani di Dream Theater. Sì, può darsi che risultano forse un po' più meccanici. Sì, questo è vero. Io avevo la foto di Mike Portnoy vicino al letto, comunque. Quindi, cioè, te ne intendi assolutamente. Ma ce l'hai ancora, mi sembra. No, ho cambiato casa. Quindi non lo baci più prima di andare adesso, no. Davide, tocca a te adesso. Adesso il vocalist si alza in piedi e declama. Per me è molto molto difficile, perché sono pochi, lo so. Sono onnivoro. E allora uno dei Beatles, qualsiasi dei Beatles. No, non qualsiasi. Abbey Road, Sgt. Pepper, Revolver e Rubber Soul, secondo me non è conosciuto quanto merita. E quindi uno di questi. Uno di quattro capisaldi. Uno di questi, insomma, dei Beatles. Di anche se Beatles. Sono capisaldi tutti i dischi di Beatles, però facciamo quattro capisaldi. Poi, insomma, io Genesis per forza, e però quello a cui sono più legato è Nursery Crime, che è quello che ho sentito per primo, poi insomma, è stato proprio uno shock per me, perché insomma io poi c'ero, poi li ho visti, visti quel periodo, certo, a Reggio Emilia, quindi. E due. Poi. E beh, dobbiamo ricordare che i Genesis sono stati sdoganati prima in Italia, come i Van de Graaff. All'estero non li conoscevano, come stessa cosa. Tutti prima gli italiani, grazie a Carlo Massarini, a Popoff, a quell'insieme di cose messe molto interessante. Bravissimi, mi erano bravissimi. e sono bravi tuttora. Quando è entrato però Phil Collins, io ho i miei punti di riferimento. Phil Collins, grande percussionista, sì. Però no, Abba Cabba ha venduto 10 milioni di copie, però Abba Cabba è uno dei dischi più brutti della storia, esatto, della musica rock, secondo me. C'è poco da fare. Siamo d'accordo. Vabbè, siamo d'accordo. Dopo devo andare su cose strane. Dimmi. A me è chiaro, io è da un'ora che ci penso, che non c'è, quindi è difficile. Io prenderei su If I Could Only Remember My Name. Adesso mi devo veramente sollevare in piedi, perché ecco, sono sollevato in piedi, perché uno dei pochissimi in 10 anni che facciamo questo programma, questa remake sui dischi più amati, If I Could Only Remember My Name è un capostipite di tutto. Si chiama David Crosby, poteva chiamarsi il mondo, perché lui con quello ha creato il suono della West Coast. Lui ha inventato If I Could Only Remember My Name, ha fatto solo quel disco là epocale. È meglio così, meglio che rimanga quello, perché tutte le altre prove che ha fatto con il figlio, anche con David Crosby, con Graham Nash, bellissime, con stile bellissima, If I Could Only Remember My Name rimarrà là, l'ha attaccato. E poi a me, io sono molto legato a uno che non è molto conosciuto, che è Nick Drake, quindi mi prendo. Come non è molto conosciuto? È conosciutissimo per noi della redazione di Radio Veneto. Five Leaves Left, me lo prenderei su, perché Riverman è una delle più belle canzoni bellissimo che ho mai sentito in vita mia. E ti dico una cosa, Davide, sono molto contento che tu abbia citato Nick Drake, e finalmente dopo molti anni progressivamente, lentamente, ma continuamente viene citato, perché è giusto che sia citato. Era un regista straordinario all'epoca, troppo straordinario, poco conosciuto, di nicchia, ma appunto dal punto di vista dell'interpretazione è difficilissimo interpretare gli accordi di Nick Drake, difficilissimo. Tu sei un chitarrista, puoi affermarlo, sì. Cosa incredibile. Anche perché poi mi dà l'occasione di prendere due piccioni con una fa, perché in Riverman c'è un arrangiamento di archi alla Debussy, che è il mio autore classico preferito. Esattamente, Debussy, hai perfettamente ragione. Sono molto contento che tu abbia citato Nick Drake. E l'ultimo, perché insomma ci vuole anche lui, per me First Circle di Pat Metheny è un capolavoro. Bene. Sono 8 pezzi, uno migliore dell'altro, quindi quello è... lo prenderai su. Benissimo. Ottimo, tocca a te, caro batterista. Allora, i live valgono, no? Tu stai girando all'ostacolo. Ma perché essendo l'ultimo sono svantaggiato, insomma. Stai girando all'ostacolo, cosa vuoi tirare fuori di là? No, Seconds Out dei Genesis. Vabbè, possiamo accettarlo. Allora, dopo, scusate la pronuncia, Who's Next dei The Who. Magari non si capisce. Bob O'Reilly? Sì, esatto. Grazie, Bob O'Reilly. E dopo un CD dei Rainbow, che non mi ricordo il nome, mi sa che è omonimo, c'è la canzone Stargazer. Mi pare di un grandissimo intro di batteria di Cozy Powell. E Cozy Powell è un batterista. È morto anche lui. È morto, purtroppo se n'è andato, però era un grandissimo. The Human, parte 1. È giusto citarlo, perché no? Hai fatto benissimo. E poi anche parte 2 fra poco. Sì, se ci vado magari fra un paio di mesi. Allora, in qualche altra radio citerai a parte di me. No, magari se vado sull'isola fra 3 mesi me lo porterò, giusto, perché adesso non c'è. Esattamente. E ovviamente The Wall. E dei Pink Floyd. The Wall di Pink Floyd. Benissimo. Abbiamo chiuso il cerchio. Sì, ma cosa ti porti te Human dei Dark Ages, che tanto te lo suoni? Se te lo suoni te, basta. Cosa vuol dire? Ma no, non... Perché sull'isola non ci vuoi con te. Io no. Sarei l'unico musicista che su un'isola deserta potrebbe suonare, perché non mi serve la corrente. Perché le chitarre acustiche è vero. Vabbè, ma tu non hai il mio volume. Ok, cos'è che stavo dicendo? No, scusami, sì, perché abbiamo concluso, abbiamo chiuso il cerchio dei dischi da portare sul giorno deserta. Sono 23:20:53.4 secondi. Facciamo una cosa di questo genere, suoniamo un altro pezzo. Che cosa? Sì. Cosa vuoi, caro Davide? Sì. Ecco, avete deciso? Sì, avete già deciso di suonare. 23:21 in questo momento. Quindi tutto dal vivo con i Dark Ages stasera, con Michele Tosoni in regia e anche con l'aiuto di Roberto Baldi, che gira anche lui. Che gira e dà una mano consistente. Wish I were a drop of rain to vanish on your hair, a whisper of the evening wind to grace your skin so fair. My heart is torn and frayed. My future's so obscure. This pain runs in my veins. I cannot find the cure. I wish I were the humble sand that lies under your feet. A shadow veil is on your eyes. Don't turn away, it's just your name I'm calling. My life in your hands I command. Without you near, I cannot help but falling. Eccoci qua, mi vuoi ripetere il titolo del pezzo? Drop of Rain. Ok, questo inizio molto genesiano secondo me, quell'arpeggio da parte da Simone. Cosa ne pensi Simone, questa mia interpretazione? Si aspetta che ti metti posavo la chitarra un attimo. Dicevi un inizio, è un inizio molto genesiano secondo me. Anche il cantato di Davide, non chiaramente, aveva qualche addentellato, qualche vicinanza. Era molto pacato, decisamente pacato. Sì, anche perché chi è che parla qui, Davide, che canta? Che canta? È un dialogo. Un dialogo tra Teoman e Namrad, che è la principessa. La principessa, quindi sì. Doveva essere così. Certamente. Quindi inizio genesiano, Davide che è molto pacato, poi il piano lo stesso pacato e la batteria pacata. Un contorno non esasperato, il dialogo deve essere così, non deve essere esasperato. Questo è il brano più prog del primo disco, della prima parte, assolutamente. Era un frammento di chitarra di cui io mi ero innamorato, molto vecchio, di Simone, e dopo avergli rotto le scatole per un bel po' di tempo. Ah, gli hai detto le scatole nel senso positivo, ma lui l'aveva già inventato lui allora questo frammento. Sì, questo era un frammento che io avevo su una cassetta. E allora a forza di insistere, e poi mi ha fatto un regalo, un giorno è venuto, insomma, mi ha fatto sentire, insomma, ha sviluppato il pezzo e quindi. Beh, si inserisce bene nel disco Number One, il primo disco vostro, assolutamente. Sì, sì, sì, sì. Anche perché noi ci teniamo. A noi piace che quello che facciamo sia un po' vario, perché pensiamo che sia giusto. Io sinceramente non amo i dischi in cui il primo brano è uguale all'ultimo, sono tutti uguali. Insomma, secondo me questo sarà forse un modo di vedere un po' tradizionale, un po' l'antica, sì, no? Hai detto una cosa giusta te, praticamente. Io ho letto anche sulle recensioni e sono d'accordo con il recensore. Gli spettri vocali tuoi sono differenti, ed è giusto che siano differenti, perché hai la capacità di andare su e di andare giù come vuoi. Certi cantanti prog invece hanno una capacità di andare molto dritti, così, assolutamente dritti. Difficilmente hanno le alterazioni, ma qui in questa opera rock le alterazioni sono fondamentali. L'opera è nata così, devono essere le alterazioni. Anche perché essendoci più personaggi è giusto che... Esattamente, esattamente. E la musica deve dare lo specchio, deve essere lo specchio del cantato di Davide. Chiaramente. Ed è stato in questo pezzo e in altri pezzi del disco, è lo specchio del suo cantato. Anche dei momenti in cui Davide non canta, sono solo le parti strumentali, anche quello fa parte dell'insieme. Certamente, certamente. È fatto apposta, volutamente. L'opera rock deve essere così, strutturata dalla partenza della tua idea, che poi si è sviluppata. Idee in quattro. A proposito di idee, chi vi suona oltre a voi dentro? Beh, oddio, qui con noi non c'è. No, qui non c'è, esattamente. per motivi diversi, certamente. Cioè Marco, non c'è, anzi, Marco Gennari, che ha suonato il basso nella grande bassista parte, certamente. E ha dato sicuramente un contributo non da poco. Notevole, esatto, per quello che è stata un po'. Ha fatto un bel collante, così. È riuscito a porsi in maniera perfetta, diciamo, tra gli arrangiamenti di chitarra e pianoforte, archi che fossero, eccetera. Fonico? Che ha dato una mano. Fonico. Ecco, una cosa volevo accendere così adesso. Marco, dico purtroppo per, diciamo così, impegni soprattutto musicali suoi, ha dovuto magari allontanarsi leggermente. Esattamente. Per cui adesso nella seconda parte non c'è più lui, ci sarà Massimiliano Perboni, Missy, un altro bassista altrettanto valido, favoloso, certo. Sicuramente. Il fonico è sempre lo stesso? Il fonico sì. Perché realmente i Dark Ages non sono in 5, sono in 6. Sono in 6. E qui noi veramente. I Rolling sono in 5, voi siete in 6, 5 più 1 praticamente. Esattamente. Perché i Rolling sono i 4 più 1, famoso quinto Rolling. Esatto. No, noi siamo. Vogliamo dire che siamo in 6, perché ci teniamo a dirlo, perché se non fosse stato per Maurizio Fracchetti, Tachi, per gli amici, non sarebbe stato possibile realizzare questa prima parte e quello che sarà poi la seconda, che comunque stiamo lavorando. Verrà fuori fra sempre, poco. Sempre nello studio da lui. Quindi il fonico è stato fondamentale. Certamente. Ma cosa aveva fatto il fonico? Cioè voi avevate i pezzi già pronti, li avete fatti sentire, lui li hai sistemati, li hai... Secondo il vostro intendimento. Ma noi abbiamo portato abbiamo fatto una prova una volta, abbiamo fatto un così, abbiamo suonato veramente tutto attaccato per cercare di vedere come usciva questo disco. Insomma, abbiamo voluto vedere se veramente si coglievano anche i passaggi fondamentali con le varie atmosfere diverse, eccetera, eccetera. E questa registrazione, che l'abbiamo fatta comunque a livello casalingo, così proprio due microfoni e via. Certo. L'abbiamo portata a Maurizio, che sinceramente ci guarda molto entusiasta e fa: accidenti, non ci ho capito veramente niente. Perfetto. Okay, allora era una battuta. Comunque il grande merito suo è stato che ha creduto in quello che era il lavoro che volevamo fare, ha dato tutto il supporto per poterlo realizzare, ed è stata quella persona che, diversamente da altre, che ha fatto scegliere lui come nostro fonico, e che diversamente ad altri ha avuto un approccio molto molto differente. Magari le altre sale erano orientate su una questione del tipo: vabbè, vi diamo un mese di disposizione di tempo, 20 giorni, 10-15 per fare esattamente produzioni in serie. Ma più che produzioni in serie, sai, questo va bene forse per un certo tipo anche di noi. Veramente fino alla fine non abbiamo mai saputo come si svolgevano veramente le cose, perché poi gli arrangiamenti, Angelo ha potuto creare gli arrangiamenti a livello le orchestrazioni con gli archi, eccetera, perché chiaramente non abbiamo pagato un'orchestra. Chiaro. Angela ha suonato, ha scritto e tirato giù tutto Angela, per cui roba sua. Lui ha avuto la pazienza di dire: vabbè, metteteci quello che ci mettete, non cambia nulla, avanti. Per cui ci abbiamo messo effettivamente 5 mesi. Okay. Che i brani erano in grosso modo nelle strutture già decise, insomma già finiti, però molte cose sono nate proprio durante la lavorazione del disco, proprio durante le registrazioni, tramite appunto Maurizio ci ha dato anche dei consigli, praticamente. Sì, ci ha dato anche dei consigli da esterno, che poi non è più stato esterno ma è diventato interno, membro effettivo della band. E sì, ci ha dato dei consigli molto, infatti anche in questo secondo disco che stiamo lavorando ci fidiamo molto di lui, insomma. Sì, volevo dimmi. Comunque citare poi anche altre persone veramente molto molto importanti per noi, che hanno avuto così, che abbiamo scoperto per colpa fra virgolette di Angela, nel senso che si è voluta circondare di donne per non sentirsi sola, mi pare giusto che sia, quindi così. Quindi il fotografo che ha realizzato la copertina e poi quello che è diventato, che ha realizzato una copertina, esatto, che poi ha realizzato è diventato il nostro, la nostra amica Giovanna Frili, è donna. Perfetto. Come è donna chi ha fatto la copertina? Elisa Sant'Ambrogio. Esatto. E beh, però non è donna il flautista. No, scusa. Che ha registrato i flauti nel primo CD. Accidenti, scusami, mi ricavo. Sì. Allora, abbiamo avuto il piacere, il grandissimo piacere, di avere con noi un flautista di musica che ha studiato al conservatorio, un maestro di musica classica che ha dato quel contributo, diciamo, dello strumento vero. Strumento vero, mezzo, che ci potevamo orchestrazioni un po' così messe. Si potevate permettere, potevate permettere. Sì, non vero. Tutta l'orchestra. No, il flautista era importante. Esatto. È una cosa positiva. Che si chiama? Andrea Tommasoni. Andrea Stefanoni. Anzi, Stefanoni, ho sbagliato. Sì. Perdonaci, Andrea, per favore, Andrea ha partecipato. No, che effettivamente è stato proprio una, così, una puntata veloce che ha fatto, una chicca che ci ha fatto. Ed effettivamente anche poi perché anche poi dal vivo non ha fatto solo nel disco, sì. E quindi poi. Dal vivo lo suoni tu. Poi lui suona principalmente musica classica, suona in un'orchestra, sì, quindi non suona genere. Ma vi ha dato una mano. Però esattamente. Sì, sì. Per l'incisione di questo disco. E l'autoproduzione è vostra? No, qui volevo arrivare proprio. È una produzione. Volevo arrivare proprio a citare anche quello che la persona che quello che ci ha portato a questo contratto discografico, ci ha dato fiducia, che è Mirko Galiazzo dell'Arto Steel, in collaborazione con MCS, che hanno poi prodotto e inciso questa nostra produzione. Sì. E ci ha creduto. Ha fatto bene. Sì. Sì, adesso magari è lì che veramente ha telefonato e ha detto: senti Mirko, stiamo facendo il secondo. Sì, e questo gliel'ho detto un po' di tempo fa. Guarda, siamo pronti con le idee, va bene. E ogni tanto mi chiama e mi fa: e allora? È pronto? Cos'è? È pronto? È pronto? E allora posso sentire? Bisogno di vedere l'opera già pronta. Certamente. Ok, adesso sentiamo la traccia numero 8, che prima l'ho sbagliato, avevo detto la traccia numero 6. E questa è Arrival. Esatto, questa è la traccia numero 8, la sentiamo e poi ne parliamo, e poi abbiamo circa ancora 20 minuti per vagare sulla musica di Dark Ages. Ok. Okay. Thank you. Rock Wave. Rock Wave, l'onda del rock. Rock Wave Live. Rockway Live, assolutamente live, siamo sempre con i Dark Ages. E Davide, adesso mi dai la spiegazione del pezzo, perché è il momento importante del pezzo. Allora, quello che abbiamo sentito. Sì, quello che abbiamo sentito adesso. Drop of Rain, no? Esatto. Sì, qui è più o meno la parte centrale del primo disco. No, la traccia numero 8, questa. Arrival. Ah, dai, scusa. Ero restato indietro perché ce l'ho qui davanti, scusate. Allora è l'arrivo proprio del principe. Arriva al palazzo, e quindi c'è il dialogo con il re. Lui chiede di essere accolto, e il re insomma dice che lo accoglie come un figlio, e quindi insomma sostanzialmente insomma è questo dialogo. Però in fondo c'è ecco lì, se vuoi, c'è una citazione un po' di King Crimson, esattamente, no? Kingsoniano alla fine, sì, c'è esattamente. Cluny, c'è questo presagio, perché insomma il re sente un brivido che lo percorre, ha questa sensazione che ci sia qualcosa di nefasto insomma all'orizzonte. Esattamente. Quindi, ecco, e quindi frippiano, possiamo dire frippiano. Sì, anche perché proprio c'è, cioè, proprio come facciamo in Crimson, soprattutto in The Court, sì, c'è quello, no? C'è including, ci sono, esattamente. E anche qui c'è including Omen, che è insomma quella parte finale dove c'è questo presagio, insomma. Bello, beh, interessante, decisamente interessante. Al di là di King Crimson, al di là, ma soprattutto un pezzo vostro, i riferimenti dei King Crimson sono riferimenti perché ci piace, sì, ci piace il prog di, prog, quel momento storico musicale, ma possiamo chiamare citazioni, citazioni fanno bene, non fanno mica male, secondo me, perché servono, come giustamente si diceva, microfono spento, c'è un spettro di età dalla mia età e quella di Davide, che ci siamo vicini, a età giovanissima quella di Carlo, si parla dai 25-23 anni fino a quasi 60, quindi un bel spettro di tante colorazioni, di tanti momenti, di tante citazioni, di tanta musica suonata, sentita, amata, non è così? E una rock opera è anche così, certo. Nasce anche da sicuramente, questo, sicuramente, sì, una cosa fondamentale. No, ma la cosa bella comunque è che io lo riscontro magari in qualche ragazzino al quale ho avuto il piacere magari di avere come allievo, certo, quelle poche volte, perché chiaramente non mi sento neanche all'altezza di farlo, ho avuto modo di insegnare qualcosa come chitarrista, esatto, e è bello perché partono con quelli che sono gli ascolti del momento, chiaramente, certo, e poi si torna indietro, perché comunque questo, le radici sono sempre salde nella musica rock, e per cui prima o dopo si deve tornare indietro e scoprire da dove dove è partito tutto, chiaramente, esatto, dove è partito tutto. Dimmi. I più fortunati lo fanno il prima possibile, lo capiscono il prima possibile, per cui hanno molto tempo poi a disposizione per andare a, sì, perché adesso a giustamente cercare, quando hai detto si usa e getta, cioè c'è una serie, c'è una proposta musicale enorme che viene consumata immediatamente, ma poi la gente se vuole indagare, tutti i giovani giustamente tornano indietro, e tornando indietro capiscono certe cose, sì, come si sentono adesso. Hai detto una grande cosa, Maurizio. Da un punto di vista prettamente commerciale, noi penso che non abbiamo fatto questa grandissima mossa. Voglio dire, nel senso, non è che è un disco facile al primo ascolto. No, Concept Album è un disco difficile. Esattamente, ma anche i brani in sé, quelli che sono usciti, prendiamoli uno ad uno, non son così immediati, effettivamente. Però vabbè, insomma, a noi piace così. Ma un'opera rock si deve ascoltare continuamente, non deve essere immediata, sì, però deve essere recepita. L'immediato poi si perde. L'immediato si perde. Si perde l'immediato, secondo me. Cioè, un'opera rock, ma in tutti i pezzi di musica di un certo livello si deve ascoltare con calma, con pazienza, per scoprire diverse colorazioni. Infatti facciamo un test velocissimo. Chi ha vinto il Festival Bar del 98? Vabbè, dai, eccolo qua. così. Effettivamente. È la solita cosa. Benissimo, adesso sono le 23:45. Devo chiedere le tournée. Che date avete, se avete delle date da fare? È una tasto lente o non no, dolente? No, no, no. È un bel tasto. No, assolutamente un bel tasto. Beh, questo è positivo, è un bel tasto. Cioè, sì. Per molte band è un tasto dolente. È dolente finora perché ci siamo dovuti tenere un attimo tranquilli e fermi perché chiaramente con la produzione in ballo del disco parte, nuovo. Sì, non ci siamo permessi chiaramente di uscire. Poi chiaramente date sì, ne troviamo, ne facciamo. L'Italia in che luoghi? Ecco, è difficile qui apriamo una parentesi abbastanza dolente in effetti perché pochissimi sono i luoghi adatti. Ma per carità, io ammiro e apprezzo chi ha un locale che vuol fare musica dal vivo. Hai detto la cosa giusta, vuol fare musica dal vivo e soprattutto inedita. Sì, al 100%. Sì, è vero, anche al 50%. Qui apriamo una serie tribute di band. Lasciamo stare le tribute band. Tribute band, purtroppo, o sono la gioia o sono i dolori, dipende dal punto di vista. No, per carità, vabbè, tutto va benissimo. Mm. Chi suona, chi fa musica va bene. Però il puntare tutto sul facile ascolto delle tribute band, insomma, vabbè, diamo un po' di spazio. Dico anche agli altri, limitare da un punto di vista proprio prettamente commerciale, come dicevo prima, quanta gente mi porti nel locale. Quello discorso, ma perché succede sempre continuamente questo? È sempre, sì. Perché quanta gente mi porti? Ma c'è una che fa musica propria. Che gente può portare? Forse deriva più che anche dal locale, però dal discorso appunto anche delle persone stesse che magari, diciamo tra virgolette, pigramente a volte ascoltano solo quello che conoscono e non hanno, questo è vero, non vogliono andare alla ricerca perché, di magari fuori una sera esatto. Gli piace sentire le canzoni che amano, insomma, come tutti. E poi è vero, scusa se ti interrompo, sì? Che è 30 anni ormai che sulla copertina di Rock Hard, di Metal Hammer ci sono sempre gli Iron Maiden, i Black Sabbath e i Purple. Sì, questo è vero, hai ragione. Abbiamo capito chi sono, ok? Non dico la copertina, però diamo spazio magari a gruppi che sono più recenti. Ma qualcuno dice con le copertine di Purple, di Iron Maiden, si vende tot copie. Sì, è giusto. Esatto. Con le copertine di qualche altro. Il discorso si può. È un po' una cosa che un circolo vizioso. Esattamente, diciamo. La coda. D'altronde, diciamo una cosa. Dimmi. Guardiamo in faccia la realtà. Sono comunque quegli stessi gruppi che sono capaci di fare il sold out in un qualsiasi posto. Questo sono d'accordo. Effettivamente si è arrivato ad un consumo proprio frenetico della musica e ce ne sono tanti, tutti apprezzabili, tutti ammirabili, ma effettivamente chi dà diciamo così la sicurezza di avere un ritorno economico su questi. E forse anche per questo non si rischia, ma non si può neanche poi, diciamo così, nel piccolo, fra virgolette, dare tutto il torto a quei locali che dicono: sì, vabbè, ma visto quello che mi costa, magari l'ingaggio della band, le spese per i permessi, e vabbè, lasciamo stare di entrare in altri discorsi, eccetera. E tutto quant'altro, se non mi entrano un tot di persone che io veramente ci metto l'incasso e non so con cosa te. Fare. Ci vorrebbero più posti dove la musica dal vivo viene comunque trattata come musica dal vivo. Sono pochi in Italia, veramente. Noi cerchiamo, come tutti chiaramente, di andare a girare in questi posti e ci facciamo tanti, tanti di quei chilometri. Sono d'accordo con te. Perché avete qualche data vicina da citare? Venerdì prossimo siamo a Mozambano, che è un locale che fa musica dal vivo. Dov'è? A Mozambano, vicino a Mantova. Vicino a Mantova, per Peschiera. Sì, in provincia, sì. Di Mantova, quella zona là, allora. Che non fa musica dal vivo, diciamo, regolarmente, lo fa saltuariamente. Comunque ha un bel palco, una bella birreria, insomma, un bel posto. E poi un paio di date importanti che siamo riusciti a trovare a Torino il 3 e il 4 maggio. Ah, però. E ci siamo, quindi è andato prima, poi siamo a Casteldario. Sì, prima, poi ad aprile abbiamo un altro paio. Qua sempre nella zona. Mantova o Veneto, Verona, insomma, o Verona. Sì, Verona, un altro paio anche lì. Però la cosa che ci fa molto piacere è esserci spinti fino a Torino anche per fare ben due date. E, insomma, là è una città molto fiorente sotto l'aspetto rock. È metal. Molto aperta. Sì, ci sono moltissimi gruppi, molti locali, è bella come città. Benissimo. E poi stiamo trattando anche qui con orgoglio, lo voglio dire, stiamo trattando per riuscire a chiudere un po' il cerchio per andare a spostarsi fino a Repubblica Ceca. Ah, quindi lo abbiamo contato, esatto, sì, per riuscire da lì, e poi speriamo che da lì speriamo che si aprano altre col secondo volume, quindi potarsi. Sì, sì, no, beh, quello sicuramente col secondo volume, per avere tutto il fatto completo. Sì. Comunque, ecco, comunque una cosa, seguiteci su Facebook, ci siamo. Ecco, citiamo allora, citiamo il sito, dai. Il sito è www.darkagesrock.com. Siamo sul MySpace, sempre sotto www.myspace.com/darkagesrock, pagina Facebook. Vabbè, lì è troppo lungo. Disco dove si può comprare? Il disco si può, vabbè, si può dal nostro sito, si può. Citiamo il titolo del disco. Human numero 1, parte 1 per il momento, fra un po' parte 2. Sì, si può ordinare direttamente dal nostro sito, o comunque si può scaricare anche dai canali Amazon e iTunes. E i vostri, qualcosa, e i vostri concerti anche. Su Bandcamp. Bandcamp, esatto. Anche ai vostri concerti si può acquistare. Sì, certamente. Concerti, sì, sicuramente. Ok, 23:52, abbiamo tempo per due pezzi. Adesso ne facciamo subito uno dal vivo, quello che volete. Che si fa? Ok. Hell. Adesso ci stiamo preparando, tutto dal vivo, lo spostamento e dopo il locale è piccolo. Il della sedia lo testimonia. La stanza è piccola, ma è tutto live. 23:52, 28 secondi. is coming through the fire, and his eyes are shining. He will tell you, so listen well. Rock Wave, l'onda del rock. Rock Wave Live. No, dai. Benissimo, sì, sì, ce la facciamo. Sì, un ritornello, solamente un ritornello. Va bene. Grazie di queste due ore di live, assolutamente, di musica dal vivo, di Dark Ages. Simone, Angela, Davide e Carlo. È stata una bella cavalcata, e lei sì. Acustica, stavolta molto acustica, l'album è decisamente elettrico, ma elettrico-acustico, con qualche reminiscenza folk, anche, che va sempre bene alla salute, secondo me. Sì, sì. Sicuramente. Ripetiamo un'altra volta, se avete le date più prossime. Allora, il 22 di marzo a Mozambano, alla Taverna del Conte, e il 5 aprile a Casteldario al Daiquiri, le prossime, e poi insomma, quelle grande di Torino, poi comunque date. Sì, al 3 e il 4 maggio a Torino, comunque sulla nostra pagina sul sito si vedono tutte. Ripetiamo il titolo dell'album. L'album è Tuman parte 1, uscirà il parte 2 fra poco. Sì. Certamente. La produzione di? La produzione è dell'Art of Steel MCS a cura di Mirko Galeazzo. Perfetto. E registrata e curata all'esasperazione da Maurizio Fracchetti del Draghi, Mago Studio. Mago Studio di Trento, di Ala di Trento. Benissimo, una cosa bellissima. Io sono molto soddisfatto di avervi ospitato stasera. Beh, siamo soddisfatti noi. Ringraziamo Alberto Prisco, il nostro direttore artistico, e Michele Toson e Roberto Baldi, che hanno curato benissimo l'ambientazione sonora. Adesso non so, abbiamo tempo circa 2 minuti e 30, se volete fare un refrain, quello che volete, o se no mettiamo il pezzo che non abbiamo messo dal disco, mettiamo il pezzo, la traccia okay. Numero 13 mi pare. Sì, sì. Sì. La traccia sì. Numero 13. Grazie, buonanotte a tutti, buonanotte e a tutti. Alla prossima, per il prossimo disco. Certamente. Siamo già l'appuntamento per il prossimo certo. Ringraziamo te Maurizio, veramente. Grazie, buonanotte. Grazie, buonanotte. Ciao, buonanotte. Ciao. Ciao.